Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Los Angeles, 25 marzo 2010. Ci troviamo sul mitico Hollywood Boulevard. Oggi riceve la sua stella sul viale delle celebrità uno degli attori più amati, più discussi e controversi dello Star System. Siamo felicissimi di onorare oggi uno dei più leggendari divi americani, a cui verrà intitolata la stella numero 2403 del viale delle celebrità. Oggi festeggiamo Dennis Hopper. Dennis Hopper. La Hollywood Walk of Fame, il viale delle celebrità, è costituita da due marciapiedi che sulla collina di Hollywood percorrono la Vine Street e l'Hollywood Boulevard. Su di essi, dal 1958, vengono periodicamente incastonate delle stelle, che recano il nome di artisti che in qualche modo hanno dato un contributo fondamentale all'industria del cinema, della radio o della televisione. La prima stella è stata intitolata a Joan Woodward, attrice premio Oscar per La donna dai tre volti, per 50 anni moglie inseparabile del grande Paul Newman. Nel primo anno e mezzo sono state assegnate oltre 1500 stelle. In seguito il ritmo si è assestato più o meno sulle due al mese. La stella viene incastonata in una piastrella nera. All'interno della stella il nome della celebrità è un simbolo, una macchina da presa, nel caso di un artista del cinema, una radio o una TV, per i rispettivi settori dello show business, un disco, se invece il premio viene assegnato a un artista dell'industria discografica. Così fino alla nostra stella di oggi, la numero 2403, Dennis Hopper. Dennis Hopper. Prima di tutto desidero ringraziare la mia famiglia, i miei cari che sono presenti qui quest'oggi. Mia figlia, mio figlio, i miei nipoti. Grazie. È la voce flebile e commossa di Dennis Hopper, quella che ringrazia la famiglia e tutti i presenti per il prestigioso riconoscimento. L'attore, uno dei maledetti di Hollywood, grintoso, indomabile, vitale, appare visibilmente provato dalla malattia che ormai da qualche mese l'ha colpito. Pesa 45 kg, si muove a fatica, deve sedersi e riposare perché ogni movimento gli costa fatica. Nonostante questo, e nonostante il parere avverso dei medici, ha voluto essere qui oggi a ricevere la sua definitiva consacrazione. L'ennesima testimonianza del carattere ribelle e ostinato dell'attore americano si ritrova proprio in questo momento difficile. Il giorno della cerimonia per la sua stella sulla Walk of Fame, Hopper avrebbe dovuto essere in tribunale, un'udienza fondamentale per la causa di divorzio dalla moglie in cui è invischiato da anni. Hopper però decide di non presentarsi per motivi di salute, salvo poi presentarsi, provato ma sorridente, alla cerimonia. Come a ribadire che la vita va vissuta e assaporata fino all'ultimo respiro, nelle sue pieghe più belle, ribellandosi a regole e compromessi. Anche se mi vedete così magro e privo di muscoli, dovete sapere che il mio carattere non è cambiato. Le bende e i cerotti che indosso oggi sono il frutto di uno scontro con i paparazzi, proprio come ai vecchi tempi. Beh, non proprio come ai vecchi tempi. Ieri, quando sono uscito di casa, un gruppo di fotografi si è avvicinato e ha urlato il mio nome. Mi sono voltato di scatto verso di loro, un po' troppo rapidamente, perché, conciato come sono caduto. Maledetti fotografi. Hopper scherza, con la gente accorsa a rendergli il giusto tributo. In mezzo a loro tanti amici. Uno, in particolare, che lo osserva commosso e partecipe. Un uomo che deve molto a Hopper, forse l'intera carriera, e che ora gli è vicino più che mai in questo momento di difficoltà. Avrete capito che si tratta del nostro secondo personaggio di oggi. Prima di conoscerlo, facciamo un salto indietro e indaghiamo in profondità chi è Dennis Hopper. Dennis Lee Hopper è nato a Dodge City, in Kansas, il 17 maggio 1936. Suo padre, J. Millard Hopper, ufficialmente fa il direttore di un ufficio postale. Ufficialmente, perché la vita di Hopper assomiglia maledettamente a un film. E anni dopo l'attore americano scoprirà che quel tranquillo genitore, in realtà, era un agente dell'OSS, Office of Strategic Service, il diretto precursore della CIA. In pratica, qualcosa a metà tra una spia e un agente segreto. In un'intervista con il giornalista americano James Lipton, Hopper racconta un aneddoto divertente su quel padre misterioso. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu comunicato alla sua famiglia che suo padre era morto in un'esercitazione in Europa. Ci fu anche il funerale, senza salma che era data per dispersa. Poi, alla fine della guerra, immaginatevi cosa successe. Mio padre tornò. Lo so, è un mondo strano. Ho scoperto molto tempo dopo che faceva parte di una sezione speciale dell'esercito, l'OSS, e che per lui era meglio in quel momento farsi credere morto. Proprio negli anni della guerra, però, grazie ai nonni, Hopper sviluppa la sua passione per il cinema. Di sabato mio nonno mi portava con lui a Kansas City e mi portava al cinema. Devo dire che nel Kansas, per un bambino, non c'è molto da vedere e da cui rimanere affascinati. Per me c'erano i treni e i film. Così mi appassionai e quello fu il mio modo di accostarmi al cinema. Quando Dennis ha 13 anni, la sua famiglia si sposta a San Diego. E qui arrivano anche i contatti con la recitazione. Presso la sua scuola superiore, Hopper si iscrive a un corso di teatro, dove dimostra subito grandissimi doti istrioniche. Il passo successivo sono la scuola dell'Old Globe Theater a San Diego e l'Actor Studio di New York, dove conosce niente meno che Lee Strasberg, con il quale può iniziare a studiare. Hopper, a soli 18 anni, diventa un giovane attore shakespeariano. Grazie a una sua performance in un allestimento di Il Mercante di Venezia, Hopper riceve da due suoi più anziani colleghi una raccomandazione per una parte in uno sceneggiato televisivo. Si chiamava Medic e mi fu offerta la parte di un giovane epilettico. Ero un po' perplesso, ma accettai. E proprio grazie a quella performance, in particolare alle scene di crisi epilettiche, riuscii a farmi notare e ben 7 studios mi contattarono per un provino. Proprio in questo periodo, per Hopper arrivano due incontri che gli cambiano completamente la vita. Il primo è con un grande attore che già da tempo ha raggiunto il successo, Vincent Price. Alto, elegante, aristocratico, Price, nel 1953, ha raggiunto il successo internazionale con il terrificante La maschera di cera. La classe e la raffinatezza di Price si estendono anche alla vita privata. Appassionato d'arte, il grande attore americano colleziona opere che accumula nella sua elegantissima villa hollywoodiana. Hopper lo incontra sul palco di una delle tante rappresentazioni shakespeariane cui prende parte. I due diventano amici e Price trasmette a Hopper proprio la passione per la pittura, la scultura e la storia dell'arte in generale, aggiungendo notevole spessore intellettuale alle doti istintive del giovane attore. Il secondo, decisivo incontro è quello con uno degli attori più influenti del cinema americano a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Influente non solo per ciò che riguarda il cinema, ma per tutta la cultura giovanile e per decine di generazioni che lo eleggono a icona e a mito. Si tratta di James Dean. God damn. On the pusher. Easy Rider è pensato da Hopper insieme all'amico Peter Fonda, conosciuto a Hollywood qualche anno prima. I due condividono la passione per le moto, intesa come simbolo di libertà, come mezzo per esplorare l'immensità degli spazi sconfinati del sud-ovest americano. E anche la passione per la cultura hippie, per le droghe, per l'amore libero, per tutto ciò che alla fine degli anni 60 può significare rottura delle convenzioni e contestazione. I due sono quasi coetanei. 33 anni Hopper, 29 Fonda. Condividevamo la stessa visione del mondo e la stessa determinazione a non scendere a compromessi. Negli anni 60 avevamo avuto le stesse esperienze di vita e quasi le stesse esperienze professionali. Per questo motivo Easy Rider per noi doveva essere un manifesto di ciò che avevamo vissuto e di ciò che volevamo per il nostro futuro. Il film, che sarà poi distribuito dalla Columbia, è totalmente indipendente. Partito come un progetto di una piccola casa di produzione, cambia status in seguito a una serie di violenti alterchi tra Hopper, Fonda e i produttori. I due vogliono il totale controllo dell'operazione e così decidono di assoldare una piccola truppa a proprie spese e di girare l'America per realizzare il loro film. Le riprese diventano un vero evento nell'evento, una sorta di raduno hippie itinerante e segna indelebilmente la controcultura a cavallo tra i 60 e i 70. Easy Rider passa indubbiamente alla storia del cinema come uno dei film che più ha influito sulla propria epoca e sulla percezione del mondo da parte delle generazioni più giovani. Tra i motivi di grande successo del film c'è anche l'interpretazione di uno degli attori non protagonisti, che è il nostro secondo personaggio di oggi. Un attore che proprio nella categoria migliore attore non protagonista raccoglie una nomination per Easy Rider. È il punto di svolta della sua carriera. E se si pensa che è uno dei più grandi attori di cinema viventi, certo si tratta di una svolta fondamentale. In quella cerimonia dal sapore dolce e amaro, da cui siamo partiti oggi sulla Walk of Fame a Hollywood, il 25 marzo 2010, questo attore è al fianco di Hopper, malato, provato. È lì a sorreggere l'amico di una vita. E proprio della loro amicizia vi racconteremo tra poco, quando scopriremo insieme qualcosa della vita di Jack Nicholson. Jack Nicholson. On a Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. The world is ours whenever we're together. There ain't a place I like to be instead of moving. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo partiti da Hollywood, dalla cerimonia di premiazione di Dennis Hopper, uno dei più grandi attori americani, che il 25 marzo 2010 riceve la sua stella sulla mitica Walk of Fame. È un premio dal sapore amaro. Hopper riceve il suo riconoscimento ora che un tumore alla prostata lo sta lentamente spegnendo. Si presenta provato, magro, emaciato. Pesa 45 kg, ma non vuole rinunciare alla cerimonia con i suoi amici di sempre. Al suo fianco, stretto a lui, c'è un uomo che è semplicemente l'amico di una vita. Uno dei più grandi attori di Hollywood che a Hopper deve davvero tanto. Stiamo parlando di Jack Nicholson. Scopriamo insieme le radici del loro legame. È stato un grande periodo quello di Easy Rider. Ci siamo divertiti un sacco. Eravamo giovani. C'era il rock, la droga, le ragazze, le moto. Forse non abbiamo fatto un film raffinato come un film di Luchino Visconti, ma ragazzi, s'era forte. Come dice il grande Jack, molto della forza di Easy Rider sta nel coinvolgimento evidente degli attori che si sentono partecipi, divertiti e trascinati dal progetto. Per Nicholson, però, sarà un film di svolta. Prima della collaborazione e dell'incontro con Hopper, infatti, la sua carriera sembrava avviata verso una direzione completamente opposta al successo. Jack Nicholson nasce a New York il 22 aprile 1937. Destinato a diventare una leggenda di Hollywood, anche la sua nascita non può che essere contornata da un alone mitico di mistero. Sua madre è la showgirl June Nilsson, nome d'arte di June Francis Nicholson. Il padre però è ignoto. Potrebbe essere il marito di lei, Donald Furcillo, sposato 6 mesi prima e lasciato poco prima della nascita di Jack. Secondo altre voci, sarebbe Eddie King, manager di Mama June. Non si saprà mai. Da grande Jack alimenterà il mito giocando spesso sulla sconosciuta identità del padre. Non è tutto qui. C'è un dato ancora più incredibile. Nicholson è cresciuto coi nonni, John Joseph Nicholson ed Ethel May Rhodes. Pensate che fino al 1974, cioè fino all'età di 37 anni, Jack è stato convinto, o almeno ha finto di esserlo, che i nonni fossero in realtà i suoi genitori e sua madre fosse in realtà sua sorella. Follia pura, che l'attore americano ha saputo poi trasformare in quella nevrotica energia istrionica che l'ha reso uno dei più grandi di sempre. Wendy, forse è bene che tu sappia che quando vieni da queste parti mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione, mi distrai, capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesca a ritrovare il filo. Sono chiaro? Questo piglio da mattatore, questo talento clownesco, pare fosse evidente fin dall'età del liceo. Nella sua scuola, la Manesquan High School, Jack ottiene il suo primo riconoscimento, clown dell'anno, nel 1954, a 17 anni. Scontato che eccella quindi nei corsi di teatro e nelle recite scolastiche, un po' meno nelle altre materie. Non sono mai stato uno studente modello. Ero più interessato all'arte, alla recitazione, naturalmente. Volevo far ridere i compagni. Mi piaceva attirare l'attenzione della gente. Naturale l'approdo a Hollywood, quindi. Subito dopo il liceo, Jack inizia a fare il galoppino per gli studio Hanna e Barbera, tra i più importanti produttori di cartoon. Siccome Nicholson non se la cava male coi disegni, inizialmente, dopo una dura fase di gavetta, gli viene offerto un lavoro come animatore. Ma le idee sono già piuttosto chiare. Non me ne fregava niente di disegnare animaletti. Volevo fare l'attore, già lo sapevo, per cui declinai l'offerta. Per realizzare il suo sogno, Jack studia teatro molto duramente. Il suo maestro è un altro grande attore americano, Martin Landau, il leggendario cattivo di Intrigo internazionale. Jack Nicholson ha studiato con me per 3 anni. Ai miei allievi passavo un concetto utilizzando sempre una storiella efficace. C'è un tizio che sta scolpendo un enorme elefante. Si avvicina a un altro e chiede: «È stupendo, come si fa?» Lo scultore risponde: «Semplice. Si prende un enorme blocco di marmo e si toglie tutto quello che non ha l'aspetto di un elefante. È esattamente quello che si fa quando si interpreta un personaggio. Si toglie tutto quello che non gli appartiene». Con i consigli di Landau, per Jack arriva l'esordio al cinema. Il film si chiama Cry Baby Killer, un crime movie di serie B. E proprio nella categoria dei B-movie sembra affermarsi la carriera di Jack, fra i quali spicca La piccola bottega degli orrori di Roger Corman, in cui Jack ricopre la parte del dentista. Is this Dr. Farb's office? Questo l'esordio di Nicholson. Ma noi non raccontiamo biografie, raccontiamo incroci che cambiano la vita. E la vita professionale di Jack Nicholson all'inizio degli anni 60 si blocca. Sembra invocare una svolta del destino. Si blocca perché da quei B-movie Jack sembra non staccarsi più. Si blocca perché sprofonda nella dipendenza dall'LSD. E si blocca anche perché il tormentato rapporto con la droga allucinogena fa naufragare il suo primo e unico matrimonio, avvenuto nel 1962 con Sandra Knight, attrice sua partner in La Vergine di Cera, il film che l'attore aveva anche co-diretto con Roger Corman. Così gli anni 60 trascorrono prima in una preoccupante staticità e poi inizia un lento declino. Insomma, Hollywood rischia di bruciarsi uno dei suoi potenziali grandi talenti. È fin superfluo ricordare cosa siano gli Stati Uniti negli anni 60. Succede di tutto. La sensibilità delle giovani generazioni, compresse, schiacciate, represse per anni, diventano incandescenti a contatto con nuove realtà sociali, con i grandi eventi della storia, con le proteste, i cortei, le manifestazioni, le rivoluzioni nei costumi e nei comportamenti. Questo complesso di rivolgimenti e trasformazioni, impossibile da riassumere, come ogni rivoluzione ha bisogno dei suoi simboli e delle sue bandiere. Ce ne sono a centinaia alla fine degli anni 60. Uno degli attori più ribelli e anticonformisti in questi anni decide di aggiungerne una, un ritratto generazionale destinato a rimanere nel tempo. Si chiama Easy Rider e vi abbiamo già raccontato cosa esso rappresenti per intere generazioni. Quello che non vi abbiamo ancora raccontato è come esso diventi anche il simbolo del riscatto personale di Jack Nicholson e il suo trampolino di lancio. Nel 1967 Jack Nicholson scrive 2 film, The Trip, poi diretto da Corman, e Head, che sarà diretto da Bob Rafelson. Sono 2 film scritti evidentemente sotto l'influsso dell'LSD, ma non è questo l'elemento importante. Quello che conta è che i protagonisti sono Dennis Hopper e Peter Fonda, che prendono in simpatia Jack Nicholson, quasi coetaneo, ma ancora piuttosto disorientato professionalmente. Jack, secondo me, aveva un talento straordinario. Eppure stava addirittura considerando di abbandonare la recitazione per dedicarsi alla scrittura e alla regia. Sarebbe stato un delitto. Gli parlammo del progetto che avevamo in mente. Inizialmente la parte che poi ha interpretato, quella dell'avvocato fatto e alcolizzato, non l'avrebbe dovuta fare lui. Ma poi, quando è toccato a lui, è stato semplicemente straordinario. Fonda e Hopper non hanno un vero copione per Easy Rider, ma una serie di idee. Quello che hanno in mente è davvero di dar vita a una sorta di manifesto della controcultura. In un film che si fa da solo, e il doppio senso non è casuale. Attori e troupe fumano liberamente marijuana sul set e anche in scena. E l'elemento dirompente del copione è che dopo aver fumato erba, non commettono, come in tutti i film americani precedenti, alcun tipo di atto criminale. Viene rotto il legame tra la marijuana e la criminalità, che si scioglie in un provocatorio canto di libertà che trova negli spazi immensi attraversati dalla banda di motociclisti protagonisti del film la propria straordinaria metafora. Molte battute sono improvvisate e spesso sono improvvisate sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente. Fu un'esperienza straordinaria. Jack Nicholson sale a bordo della troupe di Easy Rider. Si impadronisce del personaggio di George Hanson, un avvocato che aiuta i protagonisti a uscire di prigione e poi si unisce a loro nell'epica cavalcata attraverso gli States. Al di là dell'LSD, Jack disegna un'interpretazione straordinaria, istrionica, tesa, frenetica, ma allo stesso tempo profonda e spessa, che lascia intravedere il senso profondo di ribellione che cresce, nasce e si alimenta nel cuore di coloro che decidono di rompere con la società. To old D.H. Lawrence. Indians. L'unica nomination che il film raccoglie agli Oscar 1970 è proprio quella a Nicholson. Non arriva la statuetta, ma Hopper ha di fatto costruito a Jack la rampa di lancio della sua carriera. La nostra amicizia è nata in quell'anno. E io gli sarò grato per sempre, perché con Easy Rider mi ha regalato la svolta che stavo aspettando. Dal 1970 la carriera di Jack Nicholson diventa quella che conosciamo, ricca di successi e riconoscimenti. La ripercorreremo fra poco, insieme all'amicizia con Dennis Hopper. Destini incrociati. Jack Nicholson è uno dei più noti attori americani degli ultimi anni. Con 12 nomination agli Oscar e 3 statuette, 16 candidature ai Golden Globe e 6 vittorie, è il più titolato ancora in attività. La sua carriera parte in ritardo rispetto ad altri attori. Il successo arriva a 34 anni, dopo un lungo periodo nella palude dei B-movies. E arriva grazie a un attore quasi coetaneo, Dennis Hopper, che invece era esploso giovanissimo accanto a James Dean in Gioventù bruciata e nel Gigante, e poi aveva visto leggermente rallentare la sua carriera. Nel 1969 Hopper passa dietro la macchina da presa e vuole Nicholson come interprete del mitico Easy Rider, e cambia il destino del grande Jack. Cinema a parte, Jack è noto e famoso per diverse sue stravaganti passioni. È tifosissimo dei Lakers, e questa non sarebbe una cosa eccentrica se non fosse che le riprese di tutti i suoi film, anche le produzioni multimilionarie, si devono fermare quando gioca la sua squadra. È uno dichiaratamente appassionato consumatore di cocaina, e la sua battaglia per la legalizzazione dell'uso personale della polvere bianca è passata alla storia. È un instancabile collezionista d'arte, possiede diversi Van Gogh, Picasso, e anche un instancabile collezionista di donne. Non si è mai risposato dopo il matrimonio fallito negli anni 60 e ha sempre vantato conquiste illustri e invidiabili. Ha avuto una lunga amicizia con Marlon Brando, suo vicino di casa, e alla sua morte ne ha rilevato la villa. Insomma, un vero divo che non si fa mancare nulla. Non gli è da meno l'amico Dennis Hopper, con cui Jack ha condiviso scorribande, bevute, feste e donne sin dagli anni 70. Hopper, forse più di Jack, conduce davvero una vita al massimo, per citare il titolo di un film che lo vedrà coprotagonista negli anni 90. Tra sesso, droga e rock and roll, si susseguono collaborazioni con mostri sacri come Lynch, Coppola, Benders. più sperimentale e votato al cinema indipendente dell'amico Nicholson, Hopper coltiva negli anni la sua fama di attore maledetto, difficile, problematico. Insomma, i due, inseparabili nei lussuosissimi party los angelini, sono una perfetta e complementare coppia di goderecci divi hollywoodiani. La carriera di Nicholson può essere ripercorsa citando gli straordinari film che ha interpretato, sia quelli che l'hanno portato all'Oscar, sia quelli che sono stati ignorati dall'Academy. La prima statuetta, ad esempio, arriva con Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman. Beh, la voglia di uccidere, penso. Per questa straordinaria performance, Nicholson si porta a casa il suo primo Oscar. And the winner is Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's. 5 anni dopo, 5 anni comunque costellati di grandi successi, Nicholson consegna alla memoria collettiva la terrificante figura di Jack Torrance, l'inquietante protagonista di Shining di Stanley Kubrick. Sono il lupo cattivo! Non si contano gli altri successi. Missouri con Marlon Brando, Batman, in cui interpreta un indimenticabile Joker, Il postino suona sempre due volte, L'onore dei prizzi, Mars Attacks, Voglia di tenerezza che gli porta un altro Oscar, Qualcosa è cambiato, con cui arriva la terza statuetta, fino all'efferato gangster Frank Costello in The Departed di Martin Scorsese. Quando avevo la tua età ci dicevano che potevamo diventare o poliziotti o criminali. Quando hai davanti una pistola carica, qual è la differenza? Hopper, invece, che assiste a tutti i trionfi di Nicholson con fierezza e orgoglio dalle poltrone del Kodak Theater di Hollywood, regala negli anni indimenticabili performance come quella del folle fotoreporter adepto del colonnello Kurtz in Apocalypse Now, come Paris, Texas, diretto da Wim Wenders, o come quella del gangster con il complesso di Edipo di Velluto Blu. Tocca i miei muscoli. Eh? Toccali! Eh? Ti piace? Tenetelo fermo. Non riceve né Oscar né nomination. Nessun riconoscimento per questo attore un po' ribelle e inclassificabile. Beh, penso che il sistema non mi abbia mai amato per diversi motivi. Per i film che faccio, per il mio carattere, per le troppe donne. Forse. Così, per raccontare di un riconoscimento un po' tardivo e un po' amaro, torniamo al nostro punto di partenza. Sulla Walk of Fame, sull'Hollywood Boulevard. Il 25 marzo 2010, lo show business decide di conferire il giusto tributo a Dennis Hopper. Lo fa cinicamente per non rischiare che sia troppo tardi. In settembre, infatti, il manager dell'attore ha rilasciato un comunicato stampa che ha raggelato i numerosi fan dell'attore. Purtroppo rendiamo noto che Dennis Hopper è gravemente malato. Soffre di una forma molto aggressiva di tumore alla prostata. Le metastasi del tumore hanno già aggredito le sue ossa, il che rende inutile qualsiasi trattamento chemioterapico. Davanti a questo dramma, Hopper reagisce a suo modo. Ha in corso una causa di divorzio, quella che riguarda il suo quinto matrimonio. Non si arrende e lotta, ma all'udienza decisiva non si presenta. Motivi di salute. La realtà è che, pur provato, ridotto a 45 kg, preferisce andare a raccogliere l'abbraccio del suo pubblico sulla Walk of Fame, quando viene posata la piastrella con la stella contenente il suo nome. Accanto a lui, anche in questo caso, in un'improbabile maglietta grigia a stelle e strisce, in piena forma, il grande Jack Nicholson, che sorregge, omaggia, applaude l'uomo che l'ha fatto grande. Le foto fatte insieme saranno le ultime. Poche settimane dopo, sabato 29 maggio, il chopper di Easy Rider termina la sua corsa, quando il cuore di Dennis Hopper cessa di battere nella sua residenza californiana. L'ultimo grande ribelle di Hollywood perde la sua ultima battaglia. Ciò che conta, però, è ancora una volta la forza selvaggia con cui ha lottato fino alla fine. In quelle ultime foto, accanto all'amico Jack, ci sarà per sempre tutta la volontà incrollabile di un uomo nato per non arrendersi. Mai. Get your motor running. Head out on the highway.